English Bit di Giulia Crivelli. Over. Americans told not to travel for Thanksgiving over virus fears. CDC warns of super spreader potential, more than 1 million cases recorded this week. Il Financial Times ha aperto il giornale con questa notizia. Agli americani viene detto di non viaggiare in occasione del Thanksgiving per i pericoli legati al virus. Il CDC, Center for Disease Control and Prevention, avverte che le riunioni familiari sono potenziali focolai nella settimana in cui si registrano 1 milione di casi. La prima parola che ci interessa è Thanksgiving, letteralmente dire grazie. In italiano lo chiamiamo giorno del ringraziamento. Per gli americani cade l'ultimo giovedì di novembre ed è una vera festività laica onorata in tutto il paese. È anche il giorno che per la stragrande maggioranza degli americani apre un weekend lungo di vacanza di 4 giorni e quasi sempre coincide con un paio di settimane di stop alle lezioni nei college e università. Da qui la possibilità di fare visita a parenti vicini e lontani e da qui il consiglio a non viaggiare. Notiamo l'uso della preposizione over, che in questo caso significa a causa di, ma ci sono molti altri usi. The wind must have blown it over. Il vento deve averlo rovesciato. You get an A grade for scores 75 or over. Ricevi la valutazione A se raggiungi 75 o più punti. Tra gli idioms, over and over again, usato per indicare una cosa detta o fatta troppe volte. I've told you over and over again not to talk to your father like that. I am really tired. Ti ho detto 1 migliaio di volte di non rivolgerti in quel modo a tuo padre, diremmo in italiano. Sono veramente stanca. A bridge over the river, il ponte sopra il fiume. She put a blanket over the sleeping child, stese una coperta sul bambino che dormiva. Snow is falling all over the country, sta nevicando ovunque. She climbed over the wall, scavalcò il muro. Per tornare al significato che over assume nel titolo del Financial Times, I could not hear what he was saying over the noise of the traffic. Non riuscivo a capire cosa stesse dicendo per colpa del rumore del traffico. Se associato a un nome o a un aggettivo, diventa una specie di ipersuperlativo. You have been over optimistic. Sei stato davvero troppo ottimista. Overall, come avverbio, significa abbiamo visto sopra, dappertutto, ma overalls, con la S finale, è la traduzione di salopette. The mechanic was wearing a pair of blue overalls. Il meccanico indossava una salopette blu. Notiamo l'espressione a pair of, usata anche per i jeans. She really loved casual wear. She always wore a pair of jeans. Le piaceva davvero vestirsi in modo informale. Indossava sempre i jeans o un paio di jeans. Tra i verbi ricordiamo to overcome, irregolare, to overcome, overcame, overcome, che significa superare. She overcame injury to win the Olympic gold medal. Si rimise dall'infortunio e vinse la medaglia d'oro alle Olimpiadi. They managed to overcome their differences, riuscirono a superare le loro differenze.